Sì, tutto a posto. Sì, tutto a posto, tutto a posto. Stavo mettendo la bobina della mantova, agganciata all'antenna. Io ho messo silicone, ho bloccato il coso con la... dove sono andato a verricciare sopra la placchetta, se non si avvicinisce, e poi... la sopra. E io lo stesso, ho sistemato l'antenna, è tornata come prima, stazionaria è zero. Ecco, brecco, brecco! Hai registrato il break. Quindi come diciamo ragione io, che avevi qualche cosa nel capo. Sì, Spinotto, ho registrato il break, aspetta che ti facciamo entrare, avanti chi ha bussato. Buonasera a tutti, Marco Maramobile, direzione Porto Torres. Segnale ottimo qua a Sassari, dalle mie parti arrivi fondo scala, non so dove sei andando a Porto Torres, su quale tratto, dai. Ciao Carlo, sono in città ancora, sto scendo, lo faccio tutta dritta oggi. Anche se è brutta giornata, Marco, ti stai muovendo verso il mare. Eia, vabbè, Porto Torres più che altro città, centro. Ma al Porto Torres c'è un po' di... sia nuvole, sia anche sole. Al momento c'è un po' di sole, non è male la giornata, abbiamo visto il peggio. Riprendi Antonello. Eia, ciao Marco, arrivi bene, dopo 10, va alle 5, abbastanza bene. Io c'ho 1.4 di stazionale, figurati. Perché non fa massa il palo, quindi quando salgo sopra gli passo una bella passata di carta abrasiva e lo faccio diventare come prima nuovo e poi riaggancio la mantova, capito? Quella, la mia 27 la conservo, cioè la energy, come la vuoi chiamare tu. Fai bene, un po' di manutenzione ci vuole, dai. Adesso diciamo quando finisce questo periodo così un po' instabile, queste cose diciamo vanno meglio a farle, dai, perché magari puoi salire sul tetto, magari le giornate sono anche più lunghe, per cui c'è più tempo. Marco, dove sei arrivato? Aspetta Carlo, devo parlare con cautela perché non ho l'amplificato e se mi vedono con il microfono in mano guai, devo stare molto molto attento, dai. No, sto scendo all'altezza Piccomen, dai. Perfetto, non ti preoccupare, io sono qua scambiando quattro chiacchiere con Antonello, quando va bene a te entra già ti lasciamo lo spazio, dai, perché capisco con le nuove regole poi oiaia. Sempre con il microfono in mano, ciao, dietro con la patente, che bene è quello, ci vuole un box per forza, bisogna comprare il box, quando si modula la macchina, l'unico modo è quello. E infatti anche io in macchina diciamo già era volante e l'ho tolto perché appunto stavo leggendo qualche mese fa che vogliono inasprire il codice della strada per, soprattutto per chi viene trovato alla guida con telefonini e cose del genere, capito? A meno che non hai il viva voce, allora quello è concesso, ma con le radio il viva voce diciamo già ci sono alcune versioni dell'altro che hanno un microfono Bluetooth e fa da viva voce, però cioè mettere il viva voce con la radio non va bene, dai. Sì, si può installare, il fatto che devi tenere le finestre di chiusi, capito? Però già funziona, anche perché c'è il microfono che è lungo, tipo a molla, capito? Quindi che risulta proprio in faccia, di fronte alla faccia e riesce a farlo funzionare bene. E se è stato attaccato al banco con l'apparecchio, con la parlante vicino sarebbe andato in da solo in funzione. Il box ce l'ho nel 140 io posso durare tranquillamente con il microfono amplificato in terra, in macchina e funziona da solo. Posso andare anche in bagno qua, addirittura, e fa funzionare l'apparecchio. L'unica cosa che devo mettere è le cuffie. Col box c'è col box, le cuffie con Bluetooth. Parlo l'accesso. Lo so, ma diciamo che in macchina non è la cosa più comoda. Per esempio io in macchina c'ho lo stereo col Bluetooth, quindi come entro col telefonino, qualsiasi chiamata c'è la risposta automatica, dopo due suoni risponde e quindi parli senza staccare le mani dal volante, insomma, e puoi parlare tranquillamente. Però con la radio, diciamo, ti devi portare un sacco di strumentazione eccetera, e quindi è un casino, a meno che non metti la radio e insomma fai in modo che non ti becchino, e guidando non la usi, magari la usi quando sei fermo, a quel punto la puoi usare, capito, come il cellulare. Se sei fermo in una piazzola, te ne vai in una postazione alta, magari devi fare un controllo, farti le quattro chiacchiere, puoi usarlo in macchina così, però camminando se ti beccano sono cazzi amari. Quello già è vero, purtroppo è così, non ci possiamo fare niente, ce lo dobbiamo tenere com'è, capito? Vabbè, tanto ormai, solo quando da fermo va bene modulare. Lo so, comunque sono contento che non era danneggiato il cavo, non l'ho controllato tutto e non ha niente il cavo, non l'hanno fortunatamente schiacciato, niente, ho visto solo un segnetto, ma poco, roba di poco conto, non è successo niente. È che era praticamente, io avevo tolto il, diciamo, l'isolamento che aveva perché ero convinto di doverlo staccare e quindi ero pronto, e invece niente, lì col cappotto praticamente hanno realizzato una canaletta che poi hanno chiuso e quindi il filo l'hanno lasciato libero, capito, il cavo, quindi io quando voglio apro la canaletta, lo tolgo, metto qualsiasi cosa, non ci sono problemi e niente, quindi avevo già predisposto tutto, quindi evidentemente però il cavo l'hanno, come magari si è mosso, l'avevano spostato, ha mollato un po' la vitatura del PL, quindi era ballerino per quello, però umidità non ce n'era, il PL è ancora bello lucido, non c'era né ossido né niente. Allora, visto che sono salito, ho controllato, ho sigillato tutto, capito, e niente, ho rimesso, diciamo, il nastro vulcanizzante bene, e niente, quella bustina che c'era con le fascette, quella l'ho eliminata, che era una cosa provvisoria, ho controllato con lo strumento, c'ho l'SX100 della Diamond di apparecchietto e funziona bene, diciamo, e praticamente le stazionarie non si muovono dallo zero, leggermente quando premi il microfono, capito, si solleva appena appena, ma meno di molto meno di uno di metà di 0,5, capito, e poi se ti sposti di frequenza massimo può salire a 1, capito, se vai intorno a 29 o vai a 25, capito, lì si alza un pochettino perché questa antenna ha il suo centro sulla 27, quindi all'estremità di quelle bande lì magari un pochettino si alza, ma non supera l'1, per cui va benissimo. Vabbè, quello già è vero, hai fatto bene. No, io quando ho pensato tanto la provvisoria l'ho fatto su un giro di nastro basta a piede, tanto dovevo farmi ripiazzare di nuovo la mano qua, quindi a un certo punto ho fatto così, ho fatto anche bene. Adesso quando la rimetto su mi piazzo i radiali sopra, perché viene bene solo sopra piazzare i radiali, se no è un casino, viene male, perché quando lo scelta se gli avete fatto sotto due radiali, se gli avete fatto sotto all'inizio, adesso devo cercare di mettergli un affare dentro in modo da poterlo addrizzare piano piano in una mossa, così addrizzo e poi rimetto i radiali suoi e la ripiazzo sopra, che dura 10 anni spero, gli metto il nastro vulcanizzante dove c'è la bobina sotto sopra e poi dove c'erano le viti, come ho fatto prima di staccarla. Almeno sono tranquillo, io poi faccio quello che c'è, tanto la matto va infilata all'interno, non rimane all'esterno, quindi è perfetta. Poi vedo l'altro palo, adesso vediamo un po' se lasciargli la VEU oppure ci cambiato la BA27L, poi mi compro il cavo, una volta che compro il cavo lo scelgo il tuo e lo passo a Giovanna, glielo porto a casa sua il cavo, gli parla la mia barattina. Il cagnolino vuole parlare alla radio. Ha sentito il cane di Giovanna, ha sentito. Si deve entrare e quindi si mette a bagliare. Quando sente a bagliare quello lì, allora risponde anche lui. Lo fa sempre, lo fa. Ho capito, io mi oggi a casa, perché stamattina ho visto che ha piovuto un pochettino, poi ogni tanto esce il sole, così non si capisce, le previsioni dicevano che anche stasera avrebbe piovuto, però sino ad adesso diciamo è tranquilla la giornata, infatti come diceva Marco prima c'è un po' di sole, freddo non ne sta facendo e penso che anche quel vento dei giorni scorsi un po' è calato, capito, non si sta neanche male fuori. Io sono uscito ieri sera sino alle 9, più o meno sono rientrato a quell'ora, non si stava male, c'erano 14 gradi ancora. Io sono uscito ieri mattina alle 9 meno 4, ma mi stavo calcalando, ho visto Antonio Bombo, l'ho visto, mi ha parlato due minuti, ma me, cazzo, mi stavo congelando, c'era due manella. Adesso poi piano piano camminato fino a giù, passo lo spedito per scaldarmi un pochettino, poi da lì ho fatto da un supermercato all'altro e poi sono salito a casa, ho chiamato la mia sorella, visto che stava salendo da via in Italia, ho detto ci vediamo direttamente dalla Kuwait, così ci beviamo la cosa, e poi se ne va a casa. Infatti alla mezzogiorno e mezzo ero qua. Infatti ogni tanto è bene fare quattro passi a piedi. Io prima stavo uscendo di più, ultimamente avevo avuto qualche problemino diciamo di salute, quindi avevo un po' mollato. Adesso con la primavera mi risistemo la bicicletta, quella con la pedalata assistita, e come fanno belle giornate me ne esco dopo Pasqua sicuramente. Tra un paio di settimane diciamo siamo già a Pasqua, quest'anno è corta corta la Pasqua, subito dopo Carnevale. Finisco le feste, cazzo, da Natale, Capodanno e Pasqua, per carità. Adesso ormai mi devo fare una bella passeggiata, devo andare al CAF, quindi poi dal CAF devo salire all'INAM per fare il CUP per una biglietta e poi rientrerò a casa senz'altro. Piano piano salgo, scendo da una parte all'altra e vediamo. Mi fa un po' di giro anche perché questa storia di andare, cioè ho fatto la domanda a dicembre, cazzo, mi chiamano a marzo per presentarmi nell'ufficio dei servizi sociali. Cazzo, sono andato a fine dicembre. Ho fatto una registrazione come sono in carico con loro e devo di nuovo che andarci a marzo, ma si sono esauriti. Capito? Se non ci vado me ne tolgono tutto. È meglio andare, se no davvero ti bloccano tutti i sussidi eccetera, meglio andare Antone, tanto non ti costa niente, perdi una mattinata e fai tutto. Ho sentito prima un fischio, non lo so se c'è qualcuno che vuole entrare, aspetta, lasciamo un attimo di bianco, vediamo un po'. 5 RM già ne ho me, 8 c'ho di quella RM. 30 watt, sto scendo. Io sto uscendo, aspetta che controllo, così sto uscendo con 15. No, io sono 30, c'ho da fare che in pratica che sta andando in protezione un po', capito? E quindi mi dà meno watt, se no mi dava 50. In 28 invece ho 50 watt, anzi più di 50, quasi 100 watt. Se cambia antenna, me l'ha fatto questo bicchetto anche qualcosa, come nel 2009 me l'ha fatto, perché mi sembrava un po' strano, mi sembrava strano, questo apparecchio, ho detto, sta così in basso, d'altronde. Ho attaccato il 3009 col lineare, con quello speedicar, e mi dava la potenza 100 watt, mi dava solamente 60-70, e quindi in pratica è come se fosse l'antenna in protezione, più di quel tanto non le posso dare il watt. Io mi sa che non te l'avevo detto, quell'altra radio che avevo prima di questa, l'Albrecht, quel 5008, che si era bruciato l'interruttore, e Albino me l'aveva rimesso a posto, praticamente me la sono venduta, messa su eBay, l'avevo messa all'asta a 100 euro, l'ho venduta a 165, perché praticamente avevo un'emissione di spurie talmente alto che mi creava disturbi. Invece questa, anche se la uso attaccata a qualsiasi cosa, che vado anche oltre 100, capito, anche se non è che ho bisogno di usare tutti quei watt, però la uso con 5, 10, 15 watt, capito, e non crea nessun disturbo qua vicinato. Invece con quell'altra radio là, evidentemente era il tipo di radio. Poi leggendo, addirittura in Svizzera l'hanno vietata la vendita di quella radio proprio per quel problema lì, perché dice che creava un sacco di problemi di onde spurie che disturbavano un sacco di strumentazioni nei vari condomini, eccetera, no? Evidentemente, come era costruita, magari mancava di qualche filtro, qualcosa del genere. Quindi alla fine ho preso, me la sono venduta e l'ho usata un pochettino, diciamo, avevo fatto la modifica perché avevo ampliato, diciamo, tutta la banda, e quindi avevo messo un pulsantino interno, poi è andata in laboratorio perché si era bruciato l'interruttore di accensione e spegnimento, per cui non la potevo vendere come nuova mai aperta, capita, e quindi già l'ho venduta abbastanza bene, l'avevo pagata nuova, era 2,20, venduta a 165, l'ho tenuta un paio d'anni, forse 3, capita, e quindi alla fine l'ho fatta fuori. Hai fatto bene, c'ho problemi di coso, di massa, capito, non fa massa il palo, quindi era quello. Una volta che lo pulisco bene, ci rimetto con la mantova, ha funzionato una come prima. Questo difetto me l'ha fatto anche col 2009, quindi non può essere che tu dovrai che siano tutti e due difettosi tutto da un tratto. Poi c'è un equatore stazionale, figurati, anche se piove, cioè adesso che non sta piovendo, sono le 4, poi magari se piove scende, non lo sai che fa, l'acqua fa la cosa, c'è più massa. Pulisco bene il palo ce l'ho quasi 15 anni, so che vado l'acqua, mi sa che è venuto allora di cambiarlo, me lo prendo nuovo, telescopico e gli metto i tiranti. Il problema è che la mantova appesa, quello è il problema, il finale, e i tiranti poi li hanno messi sotto la basetta, se no si è fregato, perché se la metti più giù di 20-30 cm al primo momento ti si piega il palo in quel punto, capito? Perché pesa, la cazzo pesa quasi 3 kg pesa. E dopo faccio anche la cosa, ma poi piazzare come vuoi, pesa neanche 50 grammi, così 8 metri, anche 12, non se ne scende mai. È importante fissarlo bene. Io, diciamo che l'antenna, da quando l'ho messa, insomma, con tre staffe, una alla base, una a 50-60 cm e l'altra lo stesso 50-60 cm oltre, non si muove, anche se è molto alta, eccetera, come l'ho messa è rimasta, capito? Quindi da lì non la tocca, a meno che non si rovina, ma col tempo si può anche rovinare, non lo metto in dubbio, magari si rompe qualche parte, qualche componente, inizia a caderne un pezzo, allora solo a quel punto la cambierei, ma ci salgo solo per togliere quella di antenna e metterne un'altra, capito? Salvo che non si possa aggiustare, allora la tiri giù, perché stare sopra motore sempre sopra il tetto non è la cosa migliore, capito? Quindi il consiglio che io ti posso dare, quando cambi palo eccetera, mettilo bene in maniera tale che poi il palo non lo tocchi più. Siccome non ci sale il palo da 4 metri nelle scale, capito? Perché io ho la... dopo l'ascensore già avevo visto che devi fare quella lampada verticale e in pratica devi piegare il palo, quindi più di 3 metri non si può fare, non riesce a farlo salire, a meno che non lo faccio salire 6 metri da fuori, ma rischio cazzo di calarci giù, la vera volta no. Una volta l'avevo fatto, ma 3 anni fa quando ero giovane, ben zitto, l'avevo fatto, veniva anche bene salito, l'ho salito direttamente dall'esterno, il palo l'ho seguito, la ripo da atterrato, l'ho atterrato da sopra e poi io avevo una staffa a 3 piedi che aveva installato la buona lima di Prospero e era perfetta, ci mettevi il palo al centro con l'antenna già pronta sopra, allora si usavano i gun plane, la ringo. La tantella non era pesante come la mandorla, l'unica che pesava era la Firenze 2, l'ho avuta, quella sì che pesava quasi 4 kg e mezzo, era una bella teccia quella, c'era un alluminio che era grosso, ma grosso, e basta. Costava un sacco di soldi quell'antenna, però era un'antenna di lusso, non l'ho più fatta, ha fallito l'azienda, sparita quel tipo di antenna, se l'avevo trovata, guarda, ancora me l'avrei presa in qualche garage, magari buttata, che con qualche CD c'è l'apparecchio vecchio e l'antenna originale, l'avrei data subito al volo, l'avrei presa quell'antenna, l'avrei messo il palo più da 3 metri blu, palo l'acqua, adesso la Firenze 2 non ci sarebbe più salito su, manco a staccarla, l'avrei fatta morire di quell'antenna. Sì, infatti, la cosa migliore è quella, lasciarle finché funzionano e non toccarle più, capito? Magari si può rovinare il cavo eccetera, cambi quello, però io penso che quando ho piazzato la mia, che è alta, ho fatto tutto da solo, però l'ho fatto in sicurezza, capito? Nel senso che io sono al centro del tetto, per cui sono su un piano di calpestio sopra una specie di torretta, capito? Che c'è, era il vecchio vaso d'espansione, c'era una specie di casettina alta e lì ci puoi salire senza bisogno di scala, capito? Metti il piede su una staffa e sali sul tettuccio e praticamente l'antenna l'ho piazzata bassa avendo il tubo telescopico, poi pian piano cosa ho fatto? Ho alzato piano piano, alzavo e stringevo col nastro e fascette, capito, per fermare il cavo ogni 50 centimetri e l'ho portata su così tutto da solo, capito? Poi l'ho direzionata, avevo la bussola su nord, capito? E niente, da allora l'ho piazzata, però quando fai le cose devi essere sicuro, non metterti in pericolo per sistemare un tubo d'antenna, se no rischi grosso, capito, Antone? Già lo so, già avevo installato di antenne a voglia, adesso non mi fido più, perché adesso da quando ho fatto quel vaccino c'ho il braccio che ha perso forza, capito? E quindi mi ha dato quei problemi, quindi non mi fido più. Adesso vado a vabbè, la mano l'hanno staccata da sola, perché sono salito con la scaletta fino alla punta del palo, quindi in pratica la mano va venuta bene, salire su e appoggiarla immediatamente in terra. Quando una volta che l'ho appoggiata in terra, poi ho preso lo stilo, lo spostate in diagonale, cioè ho fatto scendere la terra al filo. Poi l'ho smontata con calma. Ecco perché mi sono piegati due radiali, perché i due radiali poggiavano nel pavimento del cavallo, nel terrazzino mio, e quindi ha fatto leva, capito? Invece dovevo prima smontare i radiali, poi avrei preso la base e me l'avrei scesa giù e avrei lasciato i radiali sopra al limite. lato contrario per fare più veloce. Dopodiché mi ha trovato il ragazzino e c'era visto che in pratica il cavo era sciolto, ho messo quell'antenna lì al posto dell'antenna VHF e mi tira fuori il capo condomino. Dice, cerca di spegnere il barattino perché sei sul bando, dice, che c'è da letto, dice in mezzo alle casse, mi ha detto. In mezzo alle casse di che cosa? Ha detto, se il barattino, gli ha detto, non lo so usare in questo momento. Dice, ti senti abbastanza vicino alle casse, come sono entrato 10 minuti. Allora, preso, ha detto, beh, ha già compreso. Allora, ho preso, ho smontato la Mercury da lì e l'ho appoggiata in terra. E ci ho rimesso proprio la VHF, sì. E poi con calma sono salito sopra e mi sono saltato la mantova e poi ci ho messo, ho preso la terra la Mercury e ci ho infilato nel palo così, l'ho schiacciata appena appena con la forbice, ma è come se non avessi fatto nulla, capito? Ma voi sempre quando c'è la ruggine rimane sempre. La ruggine è una brutta bestia, quindi l'hai conosciuta anche tu, visto che prima l'hai nominato a Prospero, buon'anima. Aveva il laboratorio da queste parti, prima ce l'aveva in via, vicino a via Dalmazia, lì scendendo, adesso non mi ricordo che via è quella, forse via Prunizzedda, e più ancora, prima ancora ce l'aveva dietro l'edicola di via Prunizzedda, c'era una rientranza lì, una via chiusa, e lo vedevo spesso. Lo conoscevo anche io. Sì, la pizzeria per esattezza, vicino all'edicola. Io ho lavorato con lui, ho lavorato per 5 anni con lui, figurati. Avevo piazzato il barattino dentro al laboratorio, sono salito sotto al tetto, ho visto che c'era una gran pelliccia, sono salito su piazzata. E uscivo benissimo da lì, figurati. E mi avevo portato il cavo in laboratorio, mettevo a fare le riparazioni dei telefonini, di quei telefoni di cordless. Allora c'avevo il 70-940 e quindi potevo tranquillamente andare dopo i 30, perché facevo i 45 MHz, 45, 46, 47, fino a 49 spaziavo, 59, 50. E lo utilizzavo come apparato per l'ascolto, per quando dovevo provare quei cordless che si vendevano una volta. Dopo sono nati quei cordless a 1200, 1800, quindi lo usavo per aggiustare i baracchini. Ogni tanto li portavano baracchino, un giorno ne hanno trovato uno di baracchino e era cosa allucinata, non riuscivo a capire. Cazzo, e quando mi dico altre mille dopo dicevo io, ho detto, cazzo, ma perché esce solo, detto, nei 28, dai 28 in poi? È detto, strano. Poi ho trovato il mio, 2009, ho controllato, solo stampato, ho visto che c'era un ponticello, ho staccato il ponticello e l'apparecchio si faceva tutta, dai 26 ai 30 e 32 MHz, bello tranquillo, l'avevo sbloccato, solo che mi sono dimenticato di segnarmi nel foglio come fare per farlo passare dai 28 ai 32, facendo un ponticello. Ho capito, sì, no, già era una brava persona Prospero, lo conoscevo, ci veniva spesso anche qua nel mio palazzo, non da me ma sotto dove abito io al secondo piano, perché aveva una signora che erano amici, perché il marito di questa signora ha lavorato con lui un sacco di tempo, avevano insieme il laboratorio, capito, poi si erano separati, lui era rimasto amico e lo vedevo almeno una volta alla settimana qua, ci bazzicava, lo vedevo sempre con buste avanti, indietro, capito. Roba da aggiustare sempre aveva. Sì, poi c'è una scarpa perché faceva le malattie per scarpa, capito? Se andava a baciare il padre, la spada, ragazzi, in via Prunizzedda, un giorno gli sono accattettato di sopra di lui, cioè, nella magliatiera abbiamo aperto il coso, il laboratorio tutto allagato, c'erano 20 cm di acqua in terra, tutti di stereo, tutti bagnati, è arrivato una... Io non mi aggiusto neanche io, ho detto sto dicendo in partenza che io non devo uscire in testa quando a prendermi la scossa. avverti i padroni uno per uno e o glieli compri nuovi o glieli ricci, ti fai pagare l'assicurazione e dici che glielo dai nuovo. Non si può aggiustare una cosa del genere, televisori, tutti pieni d'acqua erano. Come li aprivi? A bagno d'acqua era inutile ripararti, e tu, io lo bagno non te ne tocco, ho detto, non me ne fosse nulla. Poi abbiamo ripato 3-4 baracchini e li avevo messi a posto, figurati. Ma mi divertivo molto. Poi a un certo punto mi aiutano, non ho più diretto di rimanere qua. A salire su per te, faceva salire a me. Che proprio che sali su? No, è meglio che sali su me. Tu. Allora siamo saliti un giorno in una palazzina, appoggio la borsa di freddo, non parte la borsa di freddo, perché la sarebbe si è fermata in un quadro di un gabinetto. Allora ha un tragimento, corri, vai a prendere la cassetta di freddo, vai, allora, cosa mi ha preso? Per scemo, ho detto già cade giù, non ti preoccupare, la recupero quando è caduta giù. Già me lo ricordo che era, è morto anche, diciamo, era giovane, cavolo, quando ho saputo, è morto Prospero, ho detto, cavolo, me l'aveva detto appunto questa vicina, no, che lo conosceva, fatto come, penso, qualche infarto, qualcosa del genere, perché non era vecchio quando avrà avuto che ne so, la mia età, una sessantina d'anni, una cosa del genere, penso. Era molto giovane, infatti, sì. Io ho saputo dal figlio, c'avevo la linea d'Italia, aveva regalata a Coso, che era morto 2 anni prima, come si chiama, l'affasato tecnico, quello invece qui, lavorava con Carbonazzi, c'aveva la Grundi, che mi sembra, Francesco era morto 2 anni prima, aveva regalato una linea decametrica. Quando sono andato alla fine ho detto, ma tuo padre, ho detto, dato che tu non devi fare niente, ho detto, non è che mi dai quell'apparecchio decametrico come c'è, no, ci ha buttato tutta mia retta, vabbè, tu fa come ti vuoi, giusto. Esci che salutiamo a Marco, se ancora in ascolto, verso Porto Torres. Ciao Marco, se non puoi rispondere non fa niente, se ci senti ancora poi ce lo fai sapere. Sarà già in giro Marco, sarà sceso dalla macchina, sarà a berci qualche drink in cravata, qualche lanciata, qualche panino, almeno è uscito a fare una passeggiata, tutto mi sta dentro a cazzo, tutti i giorni. Lo so, allora già ci vuole ogni tanto un'uscita, e guai se non esci dentro casa, ti rincoglionisci a starci troppo. Lo so, io sono uscito ieri, poi vabbè, non è che posso stare tutto il giorno in giro, devo tornare a casa, non è che posso lasciare sola molto la signora, quindi rientro dopo un paio d'ore, qualcosa del genere, che poi mi dimmi, che bevi qualche birra al bar, poi se ne sacco a casa, poi se c'è la famiglia comprarmi qualche cosa da bere, me la compro al supermercato che costa molto di meno, qua costa 3 euro la bottiglia, la birra adesso 3,50, non 3 euro, quindi vado al supermercato, me la prendo lì, paio di bottiglie, una per pranzo, una per cena e sono a posto. E al bar diciamo che è diventato troppo, tutto caro, capito? Non, se entri ti bevi 2-3 bottiglie di birra, ci lasci già, sei già 15 euro se ti fidi, secondo cosa bevi, eccetera. E quindi anche io quando ci vado entro, prendo un caffè, ti trovo un amico, facciamo un bicchiere e poi se c'hai da bere te ne vai dove spendi di meno, oppure te la bevi a casa. Sì, a volte vado da Nicco, qualche volta prendo il caffè alle 6:30 e alle 8 rientro a casa, 8:15. Fai giusto, beh, in tempo a berti 2 bottiglie con gli amici e buco. Dopodiché dopo le 9 comincia a volare l'ora. Perché alle 10:15 c'è il primo treno per salire qua. E da Tonino non ci stai più andando lì alla Kuwait? Sono passato ieri con Giovanna, mi sono bevuto la birra e poi sono andato a casa insieme a Giovanna. E ho capito, io c'ero quando ero, ero avanti ieri sera, ero lì da ElectroQ, che sono andato che stavo cercando degli attacchi E14 per delle lampadine, capito? Stavo aggiustando un vecchio di quei mobili bar, capito? Che c'è l'illuminazione quando apri il cassetto, capito? Lo sportellino, c'è un interruttore messo sotto, quindi rilascia l'interruttore, si doveva accendere e praticamente si era, diciamo, la ruggine aveva fatto cortocircuito e quindi la lampada non accendeva più, non passava più corrente, quindi ho sfilato tutto e ho rifatto il cablaggio nuovo, però mi mancavano appunto due di questi portalampada da inserire lì, che avessero un supporto anche per fissarsi, e quindi sono andato lì da ElectroQ, che trovo tutto, scendi giù e frughi. Conosco ormai una vita che vado lì quando mi serve materiale elettrico, no? Non ci scendo mai io da Brickoman, se è roba di elettricità vado lì e trovo tutto. Sì, quello sì. Qualche volta ci vado anch'io, quando mi serve un altro isolante, mi serve roba veloce, vado da lui, se no qualche volta con Giovanna o vado dai cinesi, passo dai cinesi e mi chiedo la roba lì, quello che costa. C'è tutto anche noi, ho visto, prese, ricambate, gabinetto, ci c'hanno. Lì a fianco a uomo, quelle di ristorante che si mangia lo sushi e anche il resto. Sono un paio di volte con Giovanna, dopo che abbiamo finito di mangiare siamo andati lì, mi sono fatto un giretto vento e ho preso un po' di roba e poi sono iniziato a casa. Antone, io devo fare una telefonata adesso perché mi ha mandato un messaggio mio cognato e mi ha chiesto se vado alle 18 a casa sua a vedere la partita e niente, quindi adesso così gli rispondo oppure lo chiamo al telefono e poi mi organizzo un pochettino perché sono ancora in pigiama, oggi non sono uscito nulla e niente, magari ci sentiamo più tardi, se ci sei a casa già faccio chiamata alla radio e vedo un po', dai, poi magari tra una mezz'ora così mi sciacquo un po', mi vesto e rispondo a questa telefonata, a questo messaggio e nel caso poi ribusso, dai, se ci sei ancora in ascolto facciamo altre quattro chiacchiere, Antone. Sì, vabbè, non c'è problema, già sono qua, vado lui chiamato, solo l'ascolto. Ok, a dopo, dai. Eia, ciao Antone, a più tardi, grazie delle quattro chiacchiere, ci risentiamo volentieri più tardi anche, ciao ciao. Eia, ciao, più tardi, ci sentiamo. Ciao sorella, Antone Lucio. Dimmi tutto. Io mi stavo ascoltando qua, guardiamo un po' la parecchia. Buonasera, quello del sentito. Ok, come ti sto arrivando lì? Dammi il segnalino a vedere come ti sto arrivando. Aspetta, una buona sera. 9:10:06 qua da Oslo, Radio 5 a bomba. Ok, anche tu stai arrivando prima, non ti chiedo nome. Allora questo qua per i televisori in mezzo all'acqua, allora se mi sarebbe la camera corretta, se mi sta andando in grande a televisore anche lì, vorrei essere fiero. Che cazzo. No, io allora già no. Per il momento non c'ho ancora quei problemi, per il momento. Spero di non averne. Balle quando comincia a disturbare il televisore, ti telefono, ti rompono le scatole e poi quando è brutto, capito, fare una volta ti viene la paraugna, sai cosa fare, se ti metti a fare solo ascolto non puoi entrare, è come avere un baracchino, cioè un ricevitore puoi avere un baracchino. E a parte che lì oltre diciamo che stanno tutti in aria fa trattare diciamo il contattore e... Sei fortunato, se non è fortunato a far trattare tutto con cautela e con calma, senza confidenza. Perfetto. Se faccio solo lo posso mai, se sei un'ora, siamo ancora, stiamo portando. Se c'è qualcuno per questa, ok, va bene, noi tutti quindi, almeno se qualcuno diciamo si occupa di stavola, questa benedicita 27 che a quanto pare a posto di espandersi si sta rimpicciolendo il tutto. Ok, ma come si restituisce perché io la passione sono sempre? Tanto la passione diciamo della valica, c'è la passione diciamo che è a fare piacere, quindi per conto mio non c'è problema. Ok, a te devo il cambio. Insomma no, anche io c'ho la passione, ma quello sì, se abbiamo avuto le baracchino. Figurati. E c'è quello gli ha dato in conto tutto l'impianto, già lo fa l'affare. Uia. Vede che si chiama un bel elettricista e si faccia fare tutto l'impianto al nuovo. Se piglia fuoco la casa, riprende fuoco. No, quello a parte, infatti sì, esatto, può anche diciamo, pigliare fuoco anche diciamo, l'impianto. E che piglia fuoco l'impianto con il cavo di studio, il cavo di via. Perché diciamo qualche cosa anche di incendio diciamo abbastanza voluminoso quindi a noi i televisori tutto il resto diciamo dentro l'abitazione o stasera o stasera ok perfetto ecco la corrente con la prima non si scherza. Bene. Aspetta, volevo vedere una cosa, aspetta. Mi sono fermato qua, ho notato la cosa del cambio rosso, ma la regolazione, ho pensato un interruttore che c'è dietro il microfono. Poi sempre lo stato si è cambiato, poi infatti. Stai trappando adesso. Attacca il, come si chiama, il processore. No, adesso lo rimetto come la fissa, il processore. Se c'hai un keyboard c'è scritto approach, schiaccialo, perché evidentemente sei senza processore, come hai sollevato l'applicazione sei andato a salto, quindi a strappare, capito? Io ho provato oggi perché volevo sapere con il problema di direttore. Uscire così 1, 2, 3, 4, 5, 6 che si strappa, non vediamo l'azione com'è. Adesso mette il processore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 non strappa più. Io ho scritto di qua, la professoressa, che è perfetta, come era, è sempre ok, tutto ok, ma se lui non è il processore, non è altro. Sì, vabbè, comunque già riesco a capirti, non è quello preoccupante. C'avevi un keyboard, quindi non era un keyboard quello, sarà qualche IAESO, sarà senz'altro, qualcosa del genere, ICO. Oh, Pronto? Che ma c'è? Pronto. Ho preso perché c'è propagazione. Casa di mai ti basta, aspetta un attimo, c'è un canale per la più libero. Tutti uguali sono, questi americani stanno pompando. C'è un po' di americani. Non è propagazione, causa solo diciamo sporchizia, diciamo all'essere chiaro, non è propagazione, magari come io magari ti faccio insomma ti pare non è diciamo giornata di propagazione, è qualsiasi turista, è la propagazione diciamo la domanda diciamo compatta, la domanda diciamo tutta sporca e diciamo è molto. C'è propagazione, la cosa diceva ieri, c'era uno arrivava 9 più 20 nel canale 11 e poi l'altro ce l'avevo sul 9, ma c'è pigliavo 100 strade, è una cosa allucinante ieri sera, sia io sia Marco Condo, arrivava la bomba, si è messo le 6 e mezzo alle 7 gli americani. Di tua se mi stavo mettendo a cantare. Si vede che c'era, era buona la preparazione. No, manco qua, ma da me, diciamo, si sta più grande, sono un po' di correndo e basta, proprio preparazione non c'è, vabbè che non ho diciamo spazzolato diciamo la sicuria, però molta preparazione ancora di essere, non lo so, e vabbè comunque sì, quando c'è qualcosa questo magari forse qualche po' di preparazione anche per le giornate, se si riuscirà a farle queste giornate già quasi una quindicina di giorni circa, sta piovendo, sta stanco, mi ci voleva l'acqua, ma adesso sta un po' esagerando, va bene, mi è fatto, ok. Almeno in Nafia la vallata di Usi, almeno ci avete più acqua. Sì, qua non si allaga, lì a Sassari magari sì, è stata di pianura quindi è più soggetta diciamo a formarsi delle pozzanghere di acqua, ok. Come sei tu, non lì già sei in dicembre tu, quindi non c'è problema, ma diciamo proprio giù diciamo in pianura, via terra, il soggetto sempre a formarsi diciamo qualche laghetto. Ecco via. Allora, abbiamo i laghetti qua. Stanno riempendo, quindi il Covinas già vedo pieno, anche nella zona di Nuoro, con tutta la nave che ha fatto. Penso che abbia beccato anche a Usero questi mesi, perché c'era un freddo cane, c'era, a parte il tempio, vabbè. Adesso quest'estate dobbiamo prepararci, 50, intorno ai 40-50 gradi, vedremo. Allora sì, che condizionatore aria comincia a pompare. Allora. Va. Ok, va bene. Chi è? Ma io rimango un po' in cucina. E niente, va, ci siamo più avanti magari, dai, sì. Aspetta. Per me adesso è curissimo, dai. A te, Fabio. E gli accappa, guardate, noi ci sentiamo dopo, li metterà, stiamo bene, ci vale prossime. Chi è che stava chiamando? Stai scendo male. Chi è? Avanti. Marito. Don't you know we believe that justice is the best of the universe? questo è un canale dei morsi, è vero. Attenzione, canale dei morsi, c'è qualcuno qua. Bubu, mettete la portata se non entrate a parlare. Io me ne avrei fatto la vergogna. Va bene, sto scendendo, va a